Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Giovani Talenti. Prosegue anche oggi la nostra indagine nella nuova emigrazione italiana, quella dei giovani professionisti under 40 con laurea, a volte anche master alle spalle, espatriati per cercare migliori opportunità professionali e di vita. Quanti sono? Da dove provengono? Perché soprattutto se ne vanno? Noi cerchiamo di rispondere a queste domande andandoli a scovare ai quattro angoli della terra e porgendo loro il microfono, ascoltando dalla loro viva voce perché l'Italia troppe volte non è un paese per giovani, come ci racconterà tra poco l'autore di un libro di successo. E giovane è anche Paolo. Un ricercatore come minimo prende tra i 70 e gli 80 mila dollari l'anno. In più loro hanno un concetto di meritocrazia fino alla morte, nel senso che tu sia giovane, che tu sia vecchio, devi comunque rendere. Non importa quello che hai fatto in gioventù, tu devi comunque produrre. Se produci hai tutti gli onori e tutti gli oneri anche, però comunque sei preso in determinata considerazione. Da noi invece c'è questo, diciamo, c'è più, un po' più di stagnazione da questo punto di vista, e soprattutto non c'è un riconoscimento della società da un punto di vista economico, un incentivo economico alle nostre capacità. Paolo Aversa, ricercatore italiano in Pennsylvania, è il protagonista di questa puntata di Giovani Talenti. Tra poco ascolteremo la sua storia, ora spazio al notiziario. Audizione martedì scorso alla Commissione Finanze della Camera per la proposta di legge contro esodo, il DDL sugli incentivi fiscali per il rientro in Italia dei professionisti under 40 che risiedono all'estero da almeno 24 mesi consecutivi. La misura del beneficio è maggiore per chi ritorna nelle regioni del sud, nonché per le donne, qualora queste avviassero un'attività autonoma. Maggiori informazioni al sito www.controesodo.it. Crescono intanto a ritmo sempre più accentuato gli italiani che espatriano. La notizia è stata pubblicata mercoledì dal Corriere della Sera sulla base dei dati della Fondazione Migrantes. I cittadini italiani residenti all'estero sono quasi 4 milioni, più della metà dei quali ha meno di 35 anni. Molto alto anche il numero di studenti che emigrano, 60.000 l'anno. Sempre di più, infine, i laureati in cerca di lavoro che lasciano il bel paese. Ed è stato ascoltato dal Comitato per le questioni degli italiani all'estero del Senato il direttore del Centro Studi di Politica Internazionale, José Luis Risausi. Secondo Risausi, un profilo di grande rilevanza è rappresentato dalla presenza all'estero di una nutrita comunità di giovani di origine italiana, una rete e uno strumento che potrebbe essere attivato con positive ricadute per il paese, ha detto Risausi, secondo cui occorre in questo settore un intervento più ampio e più stabile. Qual è il tuo contributo di proposta, di partecipazione e di cultura a una Sicilia che è cambiata, che cerca legalità e che vuole essere in prima linea nell'innovazione, nello sviluppo e nelle relazioni internazionali? È questo il tema dell'11ª edizione del Premio Letterario Giovanile Sicilia Mondo 2010, rivolto ai giovani siciliani tra i 18 e i 35 anni, residenti all'estero e in possesso della cittadinanza italiana. Tutte le informazioni su www.siciliamondo.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta per la prima volta oltreoceano. Nome? Paolo. Cognome? Aversa. Età? 27. Città di origine? Costabissara, provincia di Vicenza. Studi? Dottorando di ricerca in direzione aziendale. Anno in cui hai lasciato l'Italia? 2009. Per andare dove? Filadelfia, Stati Uniti. Perché? Per costruirmi un futuro. Quale lavoro svolgi attualmente? Ricercatore in visita. Dove? Wharton School, University of Pennsylvania. Tornerai? E se sì, resterai? Tornerò, ma solo per ripartire. Domani me ne andrò da questi lidi, cercherò asilo negli Stati Uniti, e a Livorno è pronto già un battello che porterà lontano il mio cervello, e ad Ancona è già pronto un bastimento che porterà il cervello via col vento. Allora Paolo, come canta Gappa in Cervello in Fuga, tu sei finito negli Stati Uniti non esattamente con un bastimento, ma più probabilmente con un bel volo intercontinentale. Iniziamo a parlare con te del percorso che ti ha portato oltreoceano negli Stati Uniti, anche perché, come vedremo, è stato un percorso estremamente variegato. Iniziamo con i tuoi studi. Io ho conseguito la laurea triennale presso l'Università di Padova, dopodiché ho seguito un master annuale in business presso la fondazione qua di Altavilla Vicentina, e parallelamente nello stesso anno ho fatto un master nei weekend in risorse umane. Successivamente, durante uno di questi master, ho incontrato un professore dell'Università di Bologna che mi ha portato praticamente a Bologna a lavorare in un'azienda motociclistica. Mentre lavoravo in questa azienda mi è stato proposto di seguire successivamente con un dottorato di ricerca. Per fare questo c'era bisogno della laurea specialistica, quindi ho studiato alla laurea specialistica di Padova, mi sono laureato in tempo, dopodiché ho fatto la domanda per il dottorato di ricerca e sono entrato e quindi ho iniziato a fare il dottorato di ricerca presso l'Università di Bologna. Tu comunque all'interno dell'Università Italiana hai lasciato in qualche modo un segno, anche perché hai insegnato, hai fatto, lo dicevi tu poc'anzi, un percorso anche di dottorato di ricerca, ma qual è un po' la tua esperienza, gli aneddoti anche che ci puoi raccontare sul mondo dell'Università Italiana? Sicuramente il mondo dell'Università Italiana mi ha lasciato un buon segno da un punto di vista della formazione, nel senso che devo dire nelle mie università ho sempre trovato delle persone pronte a spiegarmi le cose a un livello anche internazionale, tant'è vero che quando poi sono venuto all'estero non ho mai avuto problemi nel confrontarmi con persone che erano qui, però da un punto di vista lavorativo ovviamente è un sistema praticamente chiuso dove ormai non ci sono più possibilità di entrare se non per pochissimi casi. Quindi se una volta era consigliato come un percorso preferenziale quello di andare all'estero, adesso è praticamente l'unica via e nel breve periodo non c'è ritorno per nessuno. Paolo, lo dicono tutti che il mondo dell'università italiana è un sistema chiuso, non ci sono possibilità, te l'hanno anche già detto i tuoi professori, per questo poi lo direi anche tu, probabilmente resterai poi all'estero una volta chiuso il dottorato in Italia, ma perché, spiegacelo in termini concreti, in termini pratici, per un giovane di 26-27 anni è difficile poter fare un percorso che lo porti ad avere una cattedra magari in futuro? Ma sostanzialmente il percorso nell'Università Italiana prevede un concorso per entrare a diventare prima di tutto ricercatore e poi appunto passare negli anni a professore associato e poi ordinario. I concorsi per ricercatori sono praticamente chiusi, nel senso che non ne vengono banditi perché non ci sono fondi per far entrare persone nuove. Quando ce n'è uno ogni tanto e ci sono persone, ragazzi che sono già ovviamente in fila, anche non soltanto per, diciamo, come si dice, baronia, ma anche solo per meriti, sono rimasti nell'università magari con contrattini precari per anni aspettando questo concorso e ovviamente c'è una fila interminabile, quindi è praticamente impossibile in tempi brevi rientrare. Nel frattempo però che uno aspetta dovrebbe far qualcosa, quindi è un po' una contraddizione. Paolo, tu comunque, lo dicevamo prima, è un percorso, un curriculum estremamente variegato perché hai lavorato anche all'interno del mondo di impresa, con quali risultati? Io sì, effettivamente ho lavorato, mentre ho studiato per la laurea specialistica, ho lavorato in varie aziende, ho iniziato in una famosa azienda di motociclette a Bologna con uno stage, poi mi sono spostato in un'azienda americana che aveva una filiale italiana, ho fatto il rappresentante, poi sono diventato quello che viene chiamato area manager, cioè responsabile vendite per un'area. E dopodiché sono diventato responsabile marketing di un'azienda di automotive e alla fine ho iniziato a collaborare con un'azienda che si occupa di gare sportive per automobili. E quindi ho sempre lavorato nel frattempo mentre studiavo e mi sono accorto che effettivamente anche il mondo del lavoro è viziato, molto viziato, sebbene non sia chiuso come il mondo dell'università, nel senso che comunque è possibile trovare dei lavori in Italia, mentre nell'università è quasi impossibile entrare, ci sono dei vizi di forma e delle pratiche a mio avviso errate che disincentivano tutte le persone che vogliono appunto avere una carriera importante in Italia. E tu, tra le altre cose che scrivevi in un'email che hai inviato a giovanitalenti@radio24.it, dicevi: i motivi per i quali i giovani di talento scappano dall'Italia, se non hanno raccomandazioni ovviamente, sono a mio avviso innanzitutto la mancanza di un sistema meritocratico in grado di premiare le eccellenze tanto nell'università quanto nell'impresa. Perché i laureati, secondo te Paolo, non sfondano spesso nel mondo imprenditoriale? Ma innanzitutto non c'è un riconoscimento della cultura, non viene riconosciuto il fatto che una persona abbia un percorso di studi superiore rispetto a un altro e soprattutto c'è questa credenza comune per la quale il laureato quando esce non sa niente, cosa in verità in parte vera, sì, perché nel senso ovviamente uno non ha una preparazione pratica, ma con gli studi che ha fatto dovrebbe essere in grado in poco tempo a recuperare il gap. Il problema più grande è che innanzitutto le imprese in Italia sono per la maggioranza piccole. Io poi tra l'altro studio proprio le imprese piccole, quindi cerco di intendermene in particolar modo. Le imprese in Italia sono piccole, c'ha tra l'altro questa credenza che nell'impresa piccola non ci vogliono grandi competenze, quindi il profilo ad alto potenziale è visto quasi con paura. Io da questo punto di vista ho avuto delle esperienze abbastanza chiare, nel senso mi ricordo che lavoravo in un'azienda, una di queste aziende, e io mi sono sempre occupato nella mia ricerca di strategia, di alleanze, di queste cose. Sto scrivendo degli articoli anche su queste cose qua. E a un certo punto l'azienda, il titolare dell'azienda, che è una persona, diciamo, un ottimo imprenditore, ha deciso di fare un'importante operazione di acquisizione. È stata fatta tutta questa operazione e nessuno mi è mai venuto a chiedere, ma non so, visto Paolo, visto che ti occupi a livello internazionale di questi temi qua, che cosa ne pensi? Perché io sono giovane e non è previsto che un ragazzo di 20 anni possa dare il suo contributo a certi tipi di cose. Ecco Paolo, girandola in positivo, tu dici, occorrerebbe forse anche un salto di mentalità, capire che anche attraverso chi ha una laurea, chi ha una preparazione specifica, si può innovare e si può anche competere in qualche modo sempre di più in un mondo globalizzato, ossia il laureato può servire sempre di più nel mondo delle imprese italiane. Sì, certamente, e soprattutto c'è bisogno anche di rinnovare, nel senso che comunque le soluzioni adottate nelle imprese finora evidentemente non sono state così positive, e quindi una rinfrescata anche di idee, prendendo magari dei ragazzi che hanno visto anche a livello internazionale cosa succede fuori, sarebbe opportuno. Paolo, andiamo ora al tuo espatrio. È un espatrio tra virgolette temporaneo, anche se tu sai già che poi dovrai ritornare ancora all'estero, ma come arrivi negli Stati Uniti e cosa fai ora? Allora, io sono arrivato negli Stati Uniti, come dicevo, nel settembre 2009 come visiting scholar, letteralmente significa ricercatore in visita. Nella mia università il gruppo di professori con cui ho lavorato è un gruppo che si è formato a livello internazionale, ma poi ho deciso di rientrare. Mi hanno consigliato appunto di andare via perché in tutta onestà hanno detto innanzitutto la preparazione che puoi avere lì è ovviamente importante, soprattutto perché qui in Italia non ci sono possibilità, quindi ho fatto domanda all'Università della Pennsylvania, che è al momento con la Wharton School, che è come dire la facoltà di business, è l'università numero uno al mondo per gli studi di finanza e management, e sono venuto praticamente per continuare i miei studi, quindi per fare le mie ricerche e provare a costruirmi un futuro, vedere anche un po' com'è l'Italia da fuori. E com'è l'Italia da fuori? Diciamo che uno gli viene un po' di rammarico e di depressione quando vede come funzionano le cose qui rispetto che da noi. Ma tu di cosa ti occupi esattamente? Come funziona diversamente il sistema accademico negli Stati Uniti? Ma allora, io mi occupo di strategie aziendali principalmente, quindi di tematiche legate alle imprese, in particolar modo studio le imprese del settore automotive, quindi automoto. Cosa funziona? Innanzitutto c'è un rispetto del ricercatore, quindi dello scienziato in questo senso, molto alto, nel senso che comunque anche le retribuzioni sono proporzionate a un percorso di studi che una persona ha fatto di almeno 15 anni. Da noi, anche avendo la fortuna di riuscire a entrare nel mondo dell'università, si parla per un ricercatore di uno stipendio di 1.300 euro dopo 11 anni di studio, quindi insomma molto limitati. Qua un ricercatore come minimo prende tra i 70 e gli 80 mila dollari l'anno. In più loro hanno un concetto di meritocrazia fino alla morte, nel senso che tu sia giovane, che tu sia vecchio, devi comunque rendere, non importa quello che hai fatto in gioventù, tu devi comunque produrre, se produci hai tutti gli onori e tutti gli oneri anche, però comunque sei preso in determinata considerazione. Da noi invece c'è questo, diciamo, c'è un po' più di stagnazione da questo punto di vista, e soprattutto non c'è un riconoscimento della società da un punto di vista economico, un incentivo economico alle nostre capacità. Una cosa mi ha molto colpito è quello che mi hai scritto, è il fatto che i tuoi professori hanno già detto tanto poi comunque non ci sarà posto, guardati intorno già da ora per il post dottorato, in un flash, com'è possibile col tuo background? Quello che si può fare normalmente è guardare, si chiamano borse post-hoc, cioè vale dire delle borse di ricerca di uno o due anni che permettono innanzitutto di riuscire a scrivere degli articoli, pubblicare a livello internazionale e poi fare il concorso per entrare in quello che è il job market, cioè la vera e propria il vero e proprio posizionamento all'interno degli atenei internazionali. Questa tra l'altro è una grandissima differenza rispetto all'Italia, nel senso che le università all'estero hanno la possibilità di pagare un ricercatore in base a quello che loro ritengono sia il suo valore, quindi c'è un mercato aperto dei cervelli. In Italia invece il ricercatore, il professore, è visto come un impiego statale, quindi da stipendio fisso, e questo ci permette, non avendo stipendi comparabili a quello che succede adesso, di attrarre dei talenti in Italia. Quindi da noi è soltanto una fuoriuscita di cervelli che non rientrano, perché non ci sono professori stranieri, salvo rarissime occasioni per alcune università private, che rientrano in Italia portando la loro competenza. Paolo, in una battuta, cosa cambieresti dell'Italia vedendola dagli Stati Uniti? Allora, da un punto di vista lavorativo cambierei il concetto di meritocrazia, nel senso che sarebbe più importante, secondo me, dare opportunità ai ragazzi di talento anche se sono giovani. E da un punto di vista universitario sicuramente bisognerebbe aprire delle posizioni, perché al momento c'è totale stagnazione, quindi non si può pensare di far nulla di nuovo se prima non si aprono delle posizioni. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della storia di Paolo Aversa, visiting researcher, ricercatore in visita, potremmo tradurre, presso la Wharton School dell'Università della Pennsylvania a Filadelfia, dove si occupa, tra le altre cose, di economia aziendale e reti di imprese. Alessandro Rosina, professore di demografia all'Università Cattolica di Milano e autore di Non è un paese per giovani, è così dura affermarsi professionalmente? Professionalmente in Italia? Beh sì, è dura nell'università, ma è dura più in generale, cioè per un giovane soprattutto affermarsi diventa particolarmente difficile. Teniamo presente che appunto i tassi di occupazione dei giovani italiani ancora prima della crisi, e la crisi ovviamente ha peggiorato terribilmente le cose, sono più bassi e erano più bassi e continuano ad essere più bassi rispetto alla media degli altri paesi europei, e le remunerazioni anche più basse e un sistema di welfare che aiuta meno i giovani poi a poter camminare con le proprie gambe, a prendersi i rischi anche magari di essere autoimprenditori di se stessi. Quindi effettivamente le difficoltà ci sono e sono abbastanza diffuse. Paolo, c'è qualcosa che vorresti chiedere ad Alessandro Rosina anche sul sistema del funzionamento delle università in Italia? Rosina è un giovane professore che ha scritto molti libri a favore dei giovani per denunciare anche una condizione, come dice lui, di parcheggio, se vogliamo, all'interno della società. Cosa gli chiederesti? Ma vorrei chiedere quali sono i problemi strutturali che non permettono o che sembrano non permettere un miglioramento della situazione. Beh, alcuni dei problemi sono stati già detti, cioè li avete già riconosciuti. Cioè, in Italia, ad esempio, sono poco disincentivati gli atenei ad assumersi ricercatori incapaci o non produttivi, e non c'è questo disincentivo perché appunto i finanziamenti alla ricerca all'università non avvengono in funzione diretta in base alla produttività scientifica, alla qualità della didattica, eccetera. Quindi il nepotismo e la possibilità quindi di far attendere molto un portaborse che poi consenta di essere sottomesso, quindi funzionare al sistema, non lo rimette in discussione, è molto più facile che si crei in Italia, e quindi ovviamente questo poi consolida le baronie che negli altri paesi. Quindi questa è assolutamente una cosa da cambiare, è appunto quella di disincentivare questa possibilità e quindi rendere più meritocratico attraverso finanziamenti che premino le facoltà e gli atenei che funzionano meglio dal punto di vista proprio della didattica e della ricerca. Alessandro Rosina, l'impressione è che c'è ancora molto da fare, nonostante insomma i primi passi in una direzione un po' più meritocratica anche all'interno dell'università. Sì, c'è molto riconoscimento. È vero che dal punto di vista del dibattito pubblico quello che non funziona nell'università insomma è ampiamente dibattuto, si è messo molto in luce insomma le disfunzioni, e il problema adesso però intaccare un sistema che si è cronicizzato e quindi si fa fatica a cambiarlo nella direzione giusta. Teniamo presente poi che ci sono aspetti strutturali che vanno cambiati solo nel tempo, ad esempio che fanno capire quanto gerontocratico sta diventando. E qui andiamo andiamo proprio a toccare un tema perno di molti tuoi studi e di molti tuoi libri: la diffusa gerontocrazia all'interno dell'Italia, quella gerontocrazia che in qualche modo parcheggia i giovani. Puoi essere un po' più preciso e spiegare in termini concreti in cosa si traduce? Beh sì, perché cioè, in un sistema gerontocratico anziché investire sul futuro tende a salvaguardare le posizioni attuali correnti, quindi le posizioni acquisite, e questo succede più in generale in Italia e ancora di più se vogliamo nell'università. Teniamo presente che l'età media della nostra classe dirigente italiana è attorno ai 61 anni, come dimostrano alcune ricerche, e la maggior parte degli ordinari italiani ha più di 60 anni, quindi lo spazio che hanno i giovani è molto maggiore negli altri paesi rispetto all'Italia, perché in Italia le posizioni in larga parte sono ormai occupate da tempo da appunto persone che hanno un'età molto avanzata, che quindi fanno anche meno ricerca, che sono meno innovativi, che quindi hanno meno il polso dei cambiamenti in atto, e quindi questo penalizza fortemente sia la competitività, l'innovazione del paese, sia lo spazio che possono avere i giovani. Paolo, oltreoceano questa gerontocrazia esiste? Ma secondo me molto meno, nel senso che ovviamente ci sono dei professori che hanno una certa età, però comunque la produttività è richiesta a tutti quanti e soprattutto non ci sono dei pregiudizi nei confronti dei giovani, quindi se un giovane ha i numeri può contare quanto una persona insomma con più anni. Paolo, per chiudere questa intervista con te, la domanda di rito che facciamo un po' a tutti i protagonisti di Giovani Talenti: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà, che sta pensando anche tra le varie vie di uscita a un espatrio all'estero? Ma ormai secondo me l'Italia è sempre di più diventata la Monte Carlo d'Europa, un bel posto dove far vacanza ma dove non andare se uno non ha già i soldi prima, quindi io consiglio sempre di andare via, andare all'estero, possibilmente Europa, magari Nord America, anche perché anche qualora una volesse tornare la sua competenza viene pagata molto di più che non diciamo rimanendo in Italia per altri anni. E tu escludi proprio di restare, o meglio di poi avere un futuro in Italia? Al momento lo vedo molto difficile, sicuramente nel resto del mondo c'è una crisi, ci sono dei problemi ma non sono accentuati come in Italia. E quindi secondo me al momento per chi ha dei numeri e vuole fare una carriera particolarmente veloce, la cosa migliore sarebbe uscire. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. In Spazio Emigranti ospitiamo oggi Roberto Bonzio, giornalista di Reuters e ideatore di un sito internet assolutamente innovativo, Italiani di Frontiera, che nasce da alcuni fortunati incontri a Silicon Valley. Italiani di Frontiera è un progetto multimediale del Western Web, frutto di 6 mesi trascorsi a Silicon Valley, tra gli italiani di Silicon Valley, con la mia famiglia. Sono partito da alcune storie fantastiche di italiani del West, scoperte da un mio amico, antropologo allo Smithsonian Institution, Cesare Marino. Queste storie sono praticamente sconosciute sia in Italia che tra gli italiani degli Stati Uniti, e questo stesso spirito di voglia di percorrere strade inedite, di cercare di sfidarsi per aprire e superare le frontiere, l'ho trovato su un'altra frontiera che è quella dell'innovazione, tra questi italiani di Silicon Valley, ricercatori, scienziati e imprenditori. Ora, Italiani di Frontiera è un progetto multimediale, in pratica sto scrivendo un libro e sto realizzando una web TV. Nel frattempo ho messo in piedi una conferenza multimediale che ha già cominciato a girare, e quel che mi fa piacere è che Reuters, questo colosso multimediale per il quale lavoro, da qualche giorno ha deciso di sostenere questo progetto, che quindi si avvarrà del marchio Reuters. Roberto, tra le tante storie con cui sei venuto in contatto ci sono ovviamente storie del passato ma anche storie del presente, soprattutto quando sei stato nella Silicon Valley. Avrai incontrato sicuramente dei giovani italiani espatriati di talento, ce li racconti? Io ho incrociato storie di veterani, figure storiche come Federico Faggino, Roberto Crea, che sono stati tra i padri del microchip e dell'insulina sintetica, dovrebbero essere celebrità se fossimo in un altro paese, invece non molti le conoscono, ad altri, chiamiamoli giovani, quindi sotto i 40 anni e qualcuno poco sopra i 40 anni, e sempre ricercatori, imprenditori e manager. Faccio l'esempio di Marcello Forconi, che dopo essere stato quasi umiliato in due concorsi, chimico, in Italia, viene chiamato al telefono dal numero uno al mondo del suo settore, che è quello degli enzimi, e con una quarantina di minuti al telefono a questa persona mai vista, mai conosciuta, al quale aveva mandato delle mail, in pratica viene chiamato a Stanford, dove è adesso appunto ricercatore. O di Luca Prasso, che va a DreamWorks dopo essere stato un pioniere della grafica digitale in Italia, faceva di tutto un po', va in questo colosso dell'animazione e il primo effetto è quasi di sconcerto per la specializzazione che tutti hanno, e dopo un po' si rende conto che essere stato un pioniere, aver fatto di tutto un po', è il suo punto di forza. Oppure Franco Folini, che con Novegion, un piccolissimo segmento del web marketing, vende in tutto il mondo, è numero uno al mondo la sua Novegion nella vendita di software per disegno e progettazione online. Che cosa hanno in caratteristica che accomuna questi giovani, che poi è la caratteristica anche di veterani? Think out of the box. Tutti mi dicono che gli italiani hanno questa caratteristica particolare di ragionare fuori degli schemi. Un punto di forza straordinario in un mondo che sta cambiando molto velocemente. Qualcosa che trapiantato in un ambiente come Silicon Valley ha una resa straordinaria, è qualcosa che purtroppo per una serie di motivi invece in Italia viene ostacolato e penalizzato. Per chi volesse saperne di più, il sito da cliccare è www.italianidifrontiera.com. E restiamo in ambito internet. Prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanceremo settimanalmente. La discussione della scorsa settimana era: in cosa si differenzia il concetto di meritocrazia in Italia e all'estero? Quanto è diverso il processo selettivo? Come cambia il concetto di raccomandazione o segnalazione? Marco ci ha scritto: tutti hanno diritto a una possibilità. Ecco perché non credo nei concorsi e non credo nemmeno nelle segnalazioni. Ritengo che le persone debbano segnalarsi da sole, dimostrando le proprie capacità, che in Italia non vengono mai apprezzate. La meritocrazia è un fantasma in questo paese, scrive Marco. Conta se hai la laurea, ma magari non sai neanche la tua lingua. Ma va bene così. E questa settimana, prendendo anche spunto dal recente articolo del Corriere della Sera che abbiamo citato a inizio trasmissione, vi lanciamo una nuova provocazione. Quanto è grave, secondo voi, il problema della fuga dei giovani talenti all'estero e quanto incidono le difficoltà che incontrano i giovani oggi in Italia sui motivi dell'espatrio? Per contattarci potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sulla portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanceremo settimanalmente la discussione. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi online a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.